Scusa Francesco, se ti ho rubato rubini puri dalle tue tasche. Scusa Francesco, se ti ho rubato la cioccolata dalla tua bocca. Scusa Francesco, mi hanno ingannato, mi hanno portato via i ricordi, come se il tempo fosse uno schiavo e noi due qui uomini strappati che non volano più. Francesco, scusa Francesco, proviamo ancora e con le ali spezziamo il filo, come se il tempo fosse un destino e noi due bersagli lontani che non cadono. Francesco, credi Francesco, possiamo ancora, suoniamo ancora.